sui temi di politica internazionale, quindi abbiamo prodotto una dichiarazione dura nei confronti dell'Iran, abbiamo escluso per il momento di decidere delle sanzioni, ma riteniamo che i tempi per il dialogo non possono essere dei tempi troppo estesi. Abbiamo anche parlato di Afghanistan. Ricordo che l'Italia sosterrà le elezioni che avverranno nel mese di agosto con l'invio di altri uomini e soprattutto con l'invio di carabinieri addestratori per dare a questo Paese la possibilità di essere autonomo e dotarsi quindi e poter contare su forze dell'ordine adeguate. Abbiamo parlato di tutti gli altri temi di politica internazionale, compreso il problema della pirateria in Somalia, e si è deciso di approfondire l'esame di questa situazione, ma di riconoscere alla Somalia la esclusività di pesca del suo patrimonio ittico per diversi chilometri di fronte alle sue coste. E quindi speriamo che anche in questa direzione si possa combattere questo fenomeno, che può anche impensierire perché può estendersi al di là della Somalia. Credo che questo sia un risultato sintetico ma abbastanza completo di ciò che il vertice ha trattato e dei risultati a cui si è giunti. Oltre alle nuove dichiarazioni congiunte c'è una dichiarazione che è in corso di estensione che riguarda il rapporto finale del Presidente su tutti i lavori che sono intercorsi. Abbiamo ancora un incontro a pranzo e ci sono ancora molti incontri bilaterali, io ne ho 5 questo pomeriggio, queste occasioni di incontro sono molto importanti perché si lavora fianco a fianco, ci si conosce, ci si stima, ci si apprezza e poi si dà vita a questi incontri anche bilaterali in cui si risolvono tutti i problemi che appunto esistono tra i vari paesi e soprattutto si punta a quello che è l'implementazione dei rapporti e degli scambi commerciali. C'è una frase che questa mattina ci ha colpito e che io penso che ricorderò sempre. L'ha detta con un racconto emozionante Gordon Brown, ricordando la storia di un ragazzo africano di 12 anni che amava l'Occidente, che sperava di diventare un giocatore di calcio, ma che ebbe a morire a 12 anni nelle braccia della madre perché non era sufficientemente nutrito. E alla madre che piangeva, questo ragazzo disse: mamma, non preoccuparti, vedrai che fra poco arriveranno le Nazioni Unite, che naturalmente non sono mai arrivate o comunque non sono arrivate in tempo. Ecco, credo che da qui in avanti tutti coloro che erano seduti a quel tavolo, quando si tratterà di aiutare l'Africa e i milioni di persone che ancora in Africa muoiono perché non hanno la possibilità di nutrirsi adeguatamente, questa frase se la ricorderanno e saranno da qui in avanti molto più generosi. Vi ringrazio e mi consegno le vostre domande. Giampaolo Pioli di Quotidiano Nazionale. Presidente, lei e Obama siete stati di fatto i due presidenti di questo G8 di grosso successo organizzativo. Vi siete conosciuti appena 3 settimane fa a Washington direttamente. Lei pensa di poter dire di essere già amico di Obama e personalmente lei si sente più vicino alla nuova America o alla vecchia Europa in questi giorni? Ho avuto un rapporto molto cordiale con il presidente Obama. Ieri sera siamo stati seduti vicini lungo tutta la cena offerta dal Presidente della Repubblica e ci siamo parlati in maniera molto simpatica. Lui mi ha raccontato cose della sua vita privata, io gli ho raccontato cose della mia vita privata, abbiamo aperto un discorso che io spero possa sfociare in una stima e in una simpatia e magari in futuro in un'amicizia, che è sempre qualcosa di positivo perché facilita tutti i rapporti tra i leader. Buonasera Presidente, buonasera. Sono Antonio Preziosi del giornale Radio Rai. Volevo chiedere come ha vissuto, che emozioni le ha dato quello che ieri sera è stato già definito da molti osservatori un momento storico, la stretta di mano tra Obama e il leader Gheddafi, e quali input sono arrivati per la pace e per il dialogo nel mondo da questo vertice dell'Aquila. Grazie. Ma ieri sera non posso dire di aver avuto un'emozione vedendo il dialogo che si è sviluppato tra il Presidente Obama e il presidente, il leader Gheddafi. Posso dire che Gheddafi ha fatto un intervento molto gentile nei miei confronti, perché ha definito un avvenimento assolutamente storico di grandissima importanza il riconoscimento che noi abbiamo dato alla Libia, il perdono che abbiamo chiesto per la colonizzazione della Libia, per le vittime che quella colonizzazione ha comportato, e ha invitato gli altri paesi che erano stati protagonisti di colonizzazioni a fare lo stesso, e quindi ha dato a quel nostro rapporto un significato più esteso che riguarda tutti i rapporti tra paesi colonizzatori e paesi colonizzati. E la seconda parte della domanda era? Input per la pace arrivano da questo vertice dell'Aquila. Ma guardi, vedendo tutti gli interlocutori al tavolo, sembrerebbe impossibile che si verifichino mai delle distanze e dei momenti non risolvibili attraverso il dialogo. Devo dire che i cittadini che fossero stati presenti a queste giornate di lavoro non potrebbero che trarne delle conseguenze molto positive per il futuro proprio dei propri figli. Grazie. Buongiorno Presidente, Andrea Fabozzi del Manifesto. Volevo dirle... Quella è una processione o è una fila? No, tanto per saperlo. In questi giorni non siamo riusciti a farle molte domande. Tanto per saperlo, va bene. Senta, volevo chiederle, in questi giorni appunto lei ha goduto sostanzialmente della tregua chiesta al Presidente Napolitano, che è stata rispettata mi pare dall'opposizione, o almeno dalla maggior parte dell'opposizione, e sostanzialmente anche dalla grande stampa nazionale, sulla quale sono usciti molti commenti che invitavano a evitare le polemiche. Finito il G8, volevo chiederle se lei può impegnarsi, diciamo, a ricambiare, impegnandosi da adesso a evitare attacchi alla stampa nel caso dovessero uscire, come è molto probabile, altre notizie che la riguardano, e magari rispondere nel merito. Io non ho goduto di nulla, semplicemente la situazione è rientrata nella normalità. Io non ho fatto nessun attacco alla stampa, e la stampa che ha attaccato me qualche volta, normalmente non ho risposto, qualche volta qualche risposta l'ho data. Ariel Dumont, del settimanale francese Marianne. Signor Presidente, io vorrei farle due domande. La prima, come lei ha detto, parlando dell'Iran, ha fatto l'oggetto di discussioni abbastanza strette. Ieri sera il presidente francese Nicolas Sarkozy, durante la sua conferenza stampa, si è detto partigiano, dopo il summit di Pittsburgh, di sanzioni abbastanza severe nel caso ci fossero ancora delle questioni con l'Iran. Vorrei sapere quale sarà la posizione dell'Italia. Inoltre, per quanto riguarda l'ambiente, sempre ieri sera il presidente Nicolas Sarkozy si è detto dispiaciuto che la scadenza del 2020 per una prima riduzione non fosse stata applicata o presa in considerazione. Lei che cosa pensa a questo proposito? Grazie. Per la prima domanda, è chiaro che la Francia è particolarmente sensibile in questo momento nei confronti degli accadimenti di Teheran, perché una studentessa francese è stata arrestata e accusata di spionaggio, e probabilmente il presidente Sarkozy gradirebbe che si adottassero nell'immediato delle sanzioni. Però dalla discussione che si è avuta e che poi è stata calata nella dichiarazione che lei avrà visto, poi all'unanimità si è deciso per quella dichiarazione e si è deciso di non applicare delle sanzioni. Per quanto riguarda invece l'ambiente, io credo che l'Europa possa continuare per conto proprio su un suo percorso, ma che tutti dobbiamo essere assolutamente contenti e soddisfatti del fatto che i paesi che prima sembravano non sentirci da questo orecchio abbiano invece deciso di iniziare anche loro un percorso di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, e sono paesi importanti a cui si deve attribuire circa l'80% dell'inquinamento dell'atmosfera. Ricordo che sono la Cina, l'India, il Brasile, il Messico e via dicendo. Generale. Buongiorno Presidente, sono Steve Scheer di Bloomberg. Come lei ha appena riassunto, questo G8 ha visto un'unità di vedute che è mancato per molti anni. Un collega italiano mi ha detto ieri che con questo G8 è finita la politica estera di Bush, suo amico personale. Volevo chiedere a lei come valuta la nuova politica estera americana, e lei pensa che questa politica estera come dire, rinnovata possa portare anche alla risoluzione di problemi importanti nei prossimi anni, come la pace nel Medio Oriente o tanti altri problemi, il clima. Guardi, devo dirle che il presidente Obama ha stupito tutti, perché nonostante non abbia una lunga vita politica e non abbia avuto, prima di diventare presidente degli Stati Uniti, neppure un passaggio come governatore di uno Stato americano, ha dimostrato e sta dimostrando un grande buonsenso, una grande capacità di riflessione, una profonda acutezza e anche una capacità di relazioni veramente mirabile. Non le dico soltanto un pensiero che è mio, le dico il pensiero che è condiviso da tutti i colleghi con cui ho avuto modo di parlare intorno alla nuova stagione della politica americana e soprattutto intorno al comportamento del presidente Obama. Per esempio, per quanto riguarda l'Iran, è il presidente Obama che ha saputo indirizzare la soluzione verso il dialogo, e questo credo che sia assolutamente da apprezzare. Quindi lei sa che, per quanto mi riguarda, io sono un cittadino italiano riconoscente nei confronti del grande popolo americano, perché con il sacrificio di molti suoi giovani soldati ha ridato a noi la dignità, ci ha salvato dal nazismo, ci ha salvato dal comunismo, ci ha consentito con il piano Marshall di uscire dalla miseria, di avviarci verso il benessere, e quindi questo è qualcosa che una persona della mia età non può e non potrà mai scordare. Quindi io ho sempre collaborato con tutte le amministrazioni americane, ho collaborato con l'amministrazione Clinton, ho collaborato con l'amministrazione George Bush, a cui sono stato e mi sento ancora legato da una forte amicizia personale. Ma devo riconoscere assolutamente con gioia che la nuova amministrazione americana non ha sbagliato un passaggio in politica estera dal momento in cui si è insediata. Quindi complimenti a Barack Obama e ai suoi uomini. Presidente, buonasera, sono Alessandro Barbera della Stampa. Volevo tornare un secondo sull'incontro di ieri sera fra il presidente Obama e il presidente Gheddafi. Oggi i giornali scrivono che c'è stato un piccolo cambiamento nella disposizione dei posti a tavola. Volevo chiedere se è stata una scelta sua quella di avvicinare il presidente Obama e il presidente Gheddafi, e se questo serviva anche a eventualmente fugare preoccupazioni dell'amministrazione americana per la politica estera libica. Si parla tra l'altro di un interessamento della Libia nei confronti di Finmeccanica. Mi chiedevo se avete avuto occasione di parlare di questo. No, non abbiamo avuto occasione di parlare di questo. I posti ieri sera a tavola sono stati assegnati dal cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Era una cena offerta dal Presidente della Repubblica. Quindi non ci sono stati cambiamenti? Non da parte mia. Grazie.